in primo piano. Buongiorno, buona domenica elettorale da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani. Vi ricordo il numero per mandare dei messaggi, sms o whatsapp 349-238-6666 o se volete il mio account Twitter che è Giulia_Crivelli. Come potete immaginare, appunto, siccome oggi più di 40 milioni di italiani hanno la possibilità di andare a votare per questo referendum, tutti i giornali aprono su questo. Diciamo che più o meno la metà, come vedremo, hanno dei titoli un po' generalisti e invece l'altra metà ha dei titoli che si schierano apertamente o per il no o per il sì. Noi siamo in questa giornata di silenzio, chiamata di silenzio elettorale. Vi spiego esattamente che cos'è, perché la parola chiave la trovate a pagina 3 del Sole 24 Ore. È una pratica che non riguarda soltanto il nostro paese. Non si può fare propaganda in queste ore in cui si vota. E la cosa però curiosa, diciamo, della legge italiana è che è una legge del 1956. Sì, è stata modificata, però resta una legge con un impianto, diciamo, pre-internet, molto pre-internet. E da qui la polemica che c'è stata ieri, che vedremo solo nei titoli perché non voglio fare alcun tipo di propaganda, la polemica che c'è stata per l'esternazione di molti politici sui social network. Infatti questa legge, ci spiega la scheda pagina 3 del Sole 24 Ore, non vieta esplicitamente l'uso dei social network. Forse bisognerebbe, se si vogliono evitare polemiche, perché visto che ce ne sono già tante in questo paese e non solo, forse appunto varrebbe la pena di inserire qualcosa, una regola per l'utilizzo appunto dei social network nella giornata preelettorale e durante le ore in cui si vota per il silenzio elettorale. Ma vediamo il titolo principale del Sole 24 Ore, che è referendum, l'attesa di mercati e banche, in riferimento naturalmente a quello che succederà domani quando si saprà qual è stato l'esito del voto. Dalla prima pagina vi segnalo l'editoriale del nostro direttore, del Sole 24 Ore, di Radio 24, Roberto Napoletano: il costo della volatilità e la certezza nel futuro. Sempre in prima pagina anche il consueto intervento di Bruno Forte, arcivescovo di Chieti Vasto: la riconciliazione religiosa per la pace, quella che viene definita la sfida delle tre grandi religioni monoteiste, cristianesimo, ebraismo e islam. La lettera al risparmiatore, il consueto appuntamento della domenica, in cui Vittorio Carlini, un collega di finanza, si concentra su un titolo quotato per dare appunto un consiglio o comunque degli strumenti per i risparmiatori per decidere se investire o no in un certo titolo o se mantenere l'investimento se hanno già quel titolo in portafoglio. Il Corriere della Sera: l'Italia vota, lite sul silenzio elettorale. Ecco a che cosa mi riferivo. In prima pagina una fotonotizia scattata a Oakland, che è una piccola città della California, dove ieri durante un concerto è scoppiato un incendio. Il bilancio delle vittime non è ancora certo, purtroppo potrebbero essere più di 40. Interessante, poi lo vedremo, se due dossier richiamati in prima pagina sul Corriere della Sera. Uno riguarda le pensioni: le nuove pensioni costeranno più di 4 miliardi. Alla pagina 31 trovate, a cura di Enrico Marro, tutte le novità sugli anticipi, le regole e la spesa. E poi un'altra, invece una vera e propria inchiesta, che poi trovate a pagina 18 e 19 di Dario Di Vicco, su come cambia l'eredità, tutte le possibilità che le recenti norme hanno introdotto. Sapete che si discute molto anche di cambiare l'aliquota sulle eredità, ma lo vedremo dopo. La Repubblica: referendum, oggi si decide, un verdetto oltre le riforme. Interessante, richiamato in prima pagina, un articolo che poi trovate a pagina 9, un po' da mani sul volante, direbbe Alessandro Milan: all'Italia soldi finiti, si studia di nuovo l'intervento statale. È la cronaca infinita della nostra compagnia di bandiera che continua a perdere soldi. Pensate che dopo una serie di salvataggi, scrive De Nicola, che sono costati al contribuente italiano nel corso degli anni, secondo stime conservative, 7,4 miliardi di euro, oltre alle perdite di gestione, cioè l'utile o la perdita di bilancio. Poi naturalmente richiamato, dico naturalmente perché questa è la seconda domenica in cui la Repubblica in cui nella Repubblica, al centro proprio, perché è un dorso estraibile, trovate questo nuovo dorso dedicato alla cultura che si chiama Robinson. E la copertina è in particolare dedicata questa settimana alla Scala, perché il 7 di dicembre, che è Sant'Ambrogio, il santo patrono della città, come sempre succede, ci sarà la prima della Scala, cioè l'apertura della stagione lirica della Scala. Come anche, come sapete ormai, da più di 2 mesi, quasi 3, la Repubblica la domenica la trovate in edicola con l'Espresso, e come forse avrete sentito, perché le prime anticipazioni sono state fatte giovedì, questa settimana l'Espresso pubblica la prima puntata di un'inchiesta fatta da un pool di settimanali europei, tra cui per l'Italia l'Espresso, sul calcio. Si chiama Football Leaks, naturalmente è ormai, quando sentiamo questa parola leak, che letteralmente vuol dire perdita, fuoriuscita, in generale accidentale, ci sappiamo che è un'inchiesta che appunto ha scoperchiato delle verità che forse molti volevano restassero nascoste. E il titolo di questa prima puntata è esclusivo: i soldi neri del calcio, la rete di pagamenti occulti e di affari riservati che coinvolge, per quanto riguarda dall'Italia, giocatori di Juventus, Inter, Roma, Palermo, Napoli e all'estero, per esempio Real Madrid e Chelsea. Le società offshore di Cristiano Ronaldo e Mourinho, le manovre finanziarie su Higuain, le trame del super agente Jorge Mendes, che è tra l'altro appunto l'agente di Cristiano Ronaldo ma anche di Mourinho. In esclusiva la prima puntata di Football Leaks, l'inchiesta internazionale che svela il business segreto del calcio. La copertina però è dedicata al referendum, con il titolo Referendum a schema libero, e c'è un vero e proprio cruciverba appunto a schema libero, curato da Stefano Bartezzaghi, con tanto di orizzontali e verticali, tutte parole che riguardano in qualche modo il referendum. Cambiamo, per così avere un po' una pausa dai titoli sul referendum, l'Avvenire, che ha in prima pagina una fotonotizia, perché ieri è stato assegnato il premio al volontariato internazionale, e alla pagina 11 trovate raccontati tutta questa serie di bellissimi progetti. Quando si dice aiutiamoli a casa loro, che cosa vuol dire? Ecco, per esempio vuol dire anche partire da piccoli progetti in Burkina Faso, in Mali, e pensate, sono dei progetti che poi, confronto a queste cifre che abbiamo appena detto, i 7,4 miliardi dell'Alitalia, questo signore Marco Alban, che appunto è impegnato in questi due paesi poverissimi dell'Africa, Burkina Faso e Mali, ha un progetto che sarà sostenuto con 20.000 euro che vengono dal famoso 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. La Stampa: l'Italia vota governo al bivio. In prima pagina sulla Stampa, però anche, come fa anche il Messaggero, poi vedremo, le altre elezioni di oggi, che sono quelle in Austria per scegliere il presidente, quindi non il capo del governo, ma il presidente, che non ha molti poteri esecutivi, però è molto significativo perché c'è un testa a testa tra il candidato dell'estrema destra, del partito che fu di Jorge Haider, che poi morì in un incidente d'auto qualche anno fa, e invece il Verde, che aveva già vinto le ultime elezioni, che però poi sono state annullate per un problema, tra l'altro, delle schede di chi votava dall'estero. La fotonotizia, dedicata a un'inchiesta, a un reportage di Cesare Marinetti da Mosca, che appunto racconta la Mosca di oggi, che viene così definita: nella Mosca di Putin, nuovi miti e vecchi fantasmi. Vi segnalo dalla Stampa, prima di una breve pausa, dove sentiremo anche le notizie su questo pazzo meteo, un articolo di Mattia Feltri, Il meglio del peggio del duello referendario, ed è una serie di citazioni che non fanno distinzione nell'arcobaleno politico italiano, e che però fanno venire un po' i brividi, più che mani sul volante. Ma ci fermiamo un attimo, ci risentiamo tra qualche minuto. Eolo, internet ultraveloce per il business. Scopri l'offerta su eolo.it. Vi presenta In primo piano. Buongiorno, ancora buongiorno e buona domenica da Giulia Crivelli. Stavamo guardando le prime pagine dei giornali, Il Messaggero, referendum Italia al bivio, e anche in questo caso, come per la Stampa, c'è anche un richiamo alle altre elezioni di oggi, quelle in Austria per l'elezione del presidente. Come abbiamo detto, si sfidano il leader dei Verdi, Alexander Van der Bellen, e il populista Norbert Höfer, che è del Partito Liberal Nazionale FPÖ, che è quello fondato da Jorge Haider. La fotonotizia dedicata al derby, Lazio-Roma, molte polemiche intorno a questo derby perché a molti tifosi non sarà possibile entrare per questioni di sicurezza e soprattutto per garantire la sicurezza anche di chi non è allo stadio. 5.000 agenti schierati, una spesa stimata di 500.000 euro per garantire appunto che vada tutto liscio. Il giorno rischia tutto di Renzi, vi segnalo però la fotonotizia, questa è una notizia che ho trovato solo sul giorno, riguarda le gite scolastiche, ci sarebbero più di 8.400 segnalazioni di prof e 12.000 controlli perché 2 mezzi su 10 non rispettano le condizioni di sicurezza e purtroppo ricordiamo anche di recente ci sono stati degli incidenti gravi, non solo in Italia naturalmente, però questo problema delle gite scolastiche sicuramente andrebbe affrontato con maggior serietà per dare maggior serenità alle famiglie che mandano i loro figli in gita, che sono un momento bellissimo dell'esperienza scolastica di tutti noi, però appunto almeno che ci siano le condizioni di sicurezza. Anche qui un po' per alleggerire, vi segnalo subito la pagina della Gazzetta dello Sport di oggi che non poteva che essere dedicata alla vittoria di ieri della Juventus 3-1 che viene definita un atto di forza. E poi per noi poveri interisti, Inter punita e sfiduciata, De Boer duro, cioè si è espresso persino l'ex allenatore. Pioli, che è l'attuale allenatore, ha cancellato la domenica libera, l'avete sentito anche nel GR, e l'ex tecnico dice lì qui all'Inter nessuno comanda, e vi segnalo rompipallone di Genegnò. Milioni di italiani chiamati oggi a esprimersi su un quesito fondamentale: è peggio l'Inter di Pioli o quella di De Boer? Vabbè, a voi l'ardua sentenza. Referendum, allora, Libero, io lo leggo comunque perché questo titolo, perché li ho letti tutti, ho letto i titoli di tutti i giornali che mi sono arrivati, però non lo so, se ci sono bambini in ascolto, non credo a quest'ora. Il titolo testuale è La grande minchiata. Tasse extracomunitari, euro e Unione Europea, lavoro. Il voto di oggi non riguarda e non risolverà nessuno dei problemi degli italiani. Questa è l'opinione sia del direttore di Libero Vittorio Feltri, che titola il suo editoriale Le risse e le balle, tra due tifoserie, e poi di Renato Farina, editorialista. Comunque vada, non andrà bene. Poi, ormai è la terza settimana, grande appuntamento domenicale su Libero con l'editoriale di Gianluca Vacchi, che sapete è il cugino di Alberto Vacchi, che è il leader di un gruppo industriale molto importante. Lui riceve una parte degli utili di questo gruppo industriale, sostanzialmente, anche se gli piace definirsi imprenditore, sostanzialmente li investe nel suo tempo libero, che però occupa quasi tutta la giornata. Sapete che è una star dei social network, soprattutto durante l'estate. Antonio Socci invece si dedica a quelli che saranno oggi i funerali di Fidel Castro è stato cremato, è in un'urna. E quindi ci racconta, e questa è anche la fotonotizia di Libero, Fidel Castro, primo santo non cattolico. Antonio Socci, vi leggo l'inizio e con quella che secondo Socci è una battuta, ma ve la leggo, poi ognuno può giudicare. A proposito di Fidel Castro che è stato cremato, circola negli ambienti di opposizione questa battuta: che ironia, è stato allergico alle urne per 58 anni e poi da morto c'è finito dentro in un'urna. Vabbè. Il manifesto, no grazie, come vi dicevo ci sono giornali che palesemente si schierano da una parte o dall'altra, e la foto è una foto di Renzi, una foto particolarmente infelice del premier Renzi, agli occhi chiusi, una mano all'orecchio come se non fosse in grado di ascoltare. La verità, l'ultima occasione per liberarci di lui, basta dire no. Il quotidiano fondato da Maurizio Belpietro anche in questo caso ha una foto di Renzi in copertina. Il Fatto Quotidiano, c'è qualcuno che aveva dei dubbi su come poteva essere la copertina di oggi, anzi è l'intero giornale praticamente che oggi, l'intera fogliazione del Fatto che è dedicata al referendum, o meglio alla posizione del Fatto, che è evidente: volete beccarvi un Senato così? Sotto ci sono le foto di alcuni rappresentanti delle regioni che, come sapete, potrebbero entrare nel Senato se passasse questa riforma costituzionale. La risposta no. Il giornale ha un no gigantesco dipinto di rosso, e invece l'Unità ha un sì gigantesco dipinto di rosso, basta un sì. Gli italiani votano per confermare la riforma costituzionale per cambiare il paese. Ultimo, perché ho detto che li ho letti tutti e così è davvero, tutti i giornali che ho ricevuto in mazzetta, ho letto le aperture proprio per farvi per onestà, per rispettare questa regola del no propaganda, ma semplicemente appunto una sterile lettura di tutti i titoli, compreso quello di Libero. Il secolo XIX, riforme, il giorno della verità. Vi segnalo però la fotonotizia, che è dedicata alla logistica, al porto di Genova, di cui forse chi seguiva la rassegna venerdì abbiamo parlato un po', di come sta cambiando e di quali sono le difficoltà di uno dei maggiori porti italiani. Per quanto riguarda soprattutto la movimentazione dei container, la notizia che dà il secolo XIX, che è il quotidiano di Genova: Genova spegne i motori delle navi in manutenzione, primo porto in Italia a elettrificare le banchine di carenaggio. Si parla spesso, no, sapete, dell'Italia che ha un deficit di trasporto non su gomme, potrebbe fare con tutte le coste e i porti che abbiamo, poi potrebbe forse usarli di più, i porti, per i trasporti internazionali, e quindi mi sembrava appunto una notizia interessante che il porto di Genova fosse all'avanguardia. C'è un ascoltatore attentissimo che ha mandato un messaggio al 349-238-6666, un WhatsApp per la precisione, che mi ricorda che che la pronuncia corretta di De Boer, perché è olandese e il dittongo OE si legge come l'inglese O. Ok, bene, ha ragione, ha perfettamente ragione lui. Veniamo alle pagine interne dei giornali velocemente, poi l'ultima parte della rassegna, come ogni domenica, la dedicheremo ai supplementi culturali. Dal Sole 24 Ore, un aggiornamento sulla questione delle banche popolari. Una riforma importante era stata quella che trasformava le fondazioni in società. Sapete che la Corte Costituzionale, che deve esaminare tutte le leggi che vengono approvate in Italia, ha dato un parere sfavorevole su alcune parti della norma, e qui quindi Laura Serafini ci spiega: popolari verso una soluzione ponte, i tecnici di Banca Italia e del MEF al lavoro per un correttivo della riforma. Come ogni settimana, siamo alla settima credo adesso, quindi non è più così nuovo, sono quasi due mesi che abbiamo introdotto sul Sole 24 Ore questa novità della pagina dedicata a sport e business. Oggi ci si concentra sulla pallavolo, il volley tricolore alla sfida mondiale. Il presidente federale Carlo Magri, sentito da Dario Ricci, che ovviamente gli ascoltatori di Radio 24 conoscono benissimo, il salto di qualità con l'evento che ospiteremo nel 2018. E poi c'è un'infografica che spiega con dei numeri quanto è importante, quanto vale il volley in Italia. Sono per esempio 348.000 tutti gli atleti, 20.000 gli allenatori, pensate, 4.500 le società affiliate. Dalle pagine interne del Corriere della Sera, un approfondimento su la grande incognita geopolitica dei prossimi mesi, che saranno i rapporti tra le due superpotenze, che sono ancora gli Stati Uniti e la Russia. Poi naturalmente c'è la Cina, terzo incomodo, e quindi il ritorno di Kissinger, Henry Kissinger, che è stato segretario di Stato, cioè ministro degli esteri, l'equivalente di un ministro degli esteri europeo in America. È ancora molto ascoltato, lo è stato da Trump, lo è stato da Obama, e probabilmente lo sarà anche da Trump. Il ritorno di Kissinger e i consigli per evitare il conflitto inevitabile. Vi dicevo dell'approfondimento sull'eredità, lo trovate a pagina 18 e 19 con questo titolo: soldi ai figli prima della morte, lasciti al mondo del no profit, come cambia la nostra eredità. E poi una storia bellissima, all'indomani della giornata internazionale delle persone con disabilità, è una storia che ci racconta Gian Giacomo Schiavi, di una cascina, la cascina Rossago nell'Oltrepò Pavese, che ospita ragazzi autistici. Nell'Oltrepò Pavese, vita in autonomia, lontani dalle famiglie, e pensate, una band col batterista di Francesco Guccini, musica, animali e un futuro. E ci ricorda in questo articolo Gian Giacomo Schiavi che sono 100.000 i bambini e gli adolescenti che in Italia hanno avuto una diagnosi di autismo, secondo le stime del Ministero della Salute. Una bella intervista di Aldo Cazzullo a pagina 27 al rapper J-Ax, intitolata "Così ho vinto la battaglia contro la cocaina, salvato da mia moglie". Quanto è attuale questo tema di persone che, così, noi magari frettolosamente pensiamo che solo perché hanno molto successo e quindi guadagnano anche molto spesso, forse proprio per quello, cadono poi nel tunnel della droga, della cocaina in questo caso, se ne può uscire. Così racconterebbe la storia personale di J-Ax. E dal Corriere della Sera, l'ultima segnalazione prima della pausa sul traffico, come ogni domenica c'è una sezione dedicata alla salute e in generale c'è sempre un macro tema. Questa settimana è che qualcosa si deve fare in gravidanza, soprattutto per mantenere la muscolatura, quindi fare un pochino di sport. Il titolo: 9 mesi in movimento. Non è vero che in gravidanza le donne devono stare a riposo, l'attività fisica praticata con cautela e seguendo i consigli del medico può portare numerosi benefici. Bisogna scegliere però la disciplina più adatta e attenersi a poche ma importanti regole per evitare posizioni sbagliate e sforzi eccessivi. Ultimissima segnalazione, in realtà ancora qualche secondo, vi dicevo l'approfondimento su Alitalia, lo trovate a pagina 9 di Repubblica, è da Mani sul Volante, quindi preparatevi perché ci sono queste cifre impressionanti delle perdite dell'Alitalia nell'era in cui è stata pubblica, totalmente pubblica, cioè dal 74 al 2007. Ci fermiamo però un attimo appunto per gli aggiornamenti di chi viaggia non in aereo ma in macchina. Eolo, internet ultraveloce per il business. Scopri l'offerta su eolo.it. Vi presenta In Primo Piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, bentrovati all'ultima parte della nostra rassegna stampa. Ancora 2 segnalazioni dalle pagine interne dei giornali, poi passiamo ai supplementi culturali. Sulla Stampa, la consueta inchiesta della domenica è dedicata al gap che c'è spesso tra gli stipendi delle donne e degli uomini e anche a come questo causa poi spesso la scelta di non tornare al lavoro dopo la gravidanza. In Italia abbiamo una percentuale molto alta di donne che fanno questa scelta. Donne busta paga leggere, senza asili, a noi mamme conviene rimanere a casa, e lo trovate alle pagine 10 e 11 della Stampa. E poi per alleggerire un po', poi tutti più o meno chi magari mi ha sentito qualche volta questa rassegna stampa sa che amo profondamente tutti gli animali, in particolare i gatti che sono gli unici che posso tenere in casa. Libero a pagina 17, casa a misura di gatto, scale, mensole, tiragraffi e cuccette sul soffitto, tutti gli oggetti per far divertire il vostro felino, l'articolo di Daniela Mastromattei, che purtroppo poi in un certo senso si lega invece alla copertina di Macro, il supplemento culturale del Messaggero in edicola ogni giorno e più corposo alla domenica. Nell'articolo di copertina Antonio Galdo, cani e gatti di casa, un amore a tempo, perché questo titolo? Perché in realtà sono ancora tantissimi gli animali abbandonati, prima adottati e poi abbandonati. 80.000 gatti abbandonati ogni anno e più probabilmente anche di più per quanto riguarda i cani. Veniamo ai veri e propri supplementi culturali, quelli che escono solo la domenica, quindi la domenica del Sole 24 Ore, e iniziamo come sempre dal breviario di Gianfranco Ravasi, che questa settimana si intitola Vagito, e la citazione è niente meno che dal Re Lear di Shakespeare. Noi siamo venuti qua giù piangendo, lo sai bene, la prima volta che sentiamo l'odore dell'aria mandiamo un vagito e ci mettiamo a piangere, appena nati noi piangiamo per essere venuti in questo grande teatro di pazzia. È nella memoria di tutti la figura tragica del re Lear shakespeariano, soprattutto quando, espulso dalle figlie, vaga in mezzo alla tempesta, accompagnato solo dal fedele Kent e dal buffone di corte. Il suo grido disperato riassume l'esistenza umana in quel vagito primordiale, appena sentito l'odore dell'aria, la quale già puzza di sangue ed è striata dalle urla e dalle lacrime umane. Certo, la visione è pessimistica, tuttavia è come una scossa elettrica che dovrebbe far fremere il torpore dell'abitudine, dell'indifferenza, dell'egoismo. Sempre da Shakespeare, nel Macbeth, ci proviene quel celebre monito, anch'esso pessimistico, ma da meditare. La vita non è che un'ombra che cammina, un povero commediante che si pavoneggia e si agita sulla scena del mondo per la sua ora e poi non se ne parla più. Una favola raccontata da un idiota, piena di rumore e furore, che non significa nulla. La copertina, il pezzo di copertina però vero e proprio, prende spunto da un libro che è stato pubblicato dalla casa editrice Löscher e che curato da 2 studiosi che ripercorre tutta la figura e il significato storico, religioso e politico di Erasmo da Rotterdam, né con Roma né con Lutero. L'amore di Erasmo per Cicerone non gli impedì di stilare un pamphlet contro la retorica della curia, con la quale fu persino più duro dei protestanti. E poi ecco, ho detto che eravamo arrivati alla settimana di Sport e Business, non è vero, siamo all'ottava, e me ne accorgo perché insieme a Sport e Business è anche partita l'iniziativa del Domenicale che dedica 4 pagine alle letture per i più giovani, che si intitola C'è qualcuno che sa leggere, E questa settimana la copertina è dedicata, è intitolata Tutta la letteratura a portata di papero. Duchenstein è l'ultima delle trasposizioni attraverso cui Topolino da sempre ci aiuta a familiarizzare con i classici. Il fumetto, molto fedele a Mary Shelley, ci invita a diffidare di maghi e alchimisti come Paracelso e Anatro Magno per abbracciare la vera scienza. Naturalmente un approfondimento sulla Prima della Scala, intitolata appunto Teatro alla Scala, e il pezzo principale di queste quattro pagine dedicate all'inaugurazione della stagione lirica della Scala, Quante Madame sul palco. Il riferimento naturalmente è all'opera che aprirà appunto questa stagione, che è la Madama Butterfly di Puccini. Robinson, che è l'inserto culturale della Repubblica, siamo solo al numero 2, il primo l'abbiamo visto settimana scorsa, e anche loro scelgono di dedicarlo alla Prima della Scala, e quindi il titolo Luce alla Scala, con due articoli di due giornaliste della Repubblica che da sempre seguono la Prima della Scala, Natalia Aspesi e Loretta Bentivoglio, che è anche una grandissima esperta di musica classica, e trovate poi tutto nelle pagine interne. Bisogna ancora un po' abituarsi a sfogliare questo supplemento, che appunto è nuovo. Vi segnalo un articolo che a me è piaciuto molto, si intitola Cosa pensano le piante, e Chiara Valerio è una scrittrice con un dottorato in matematica e ha intervistato il neurobiologo Stefano Mancuso, che spiega perché le piante sono intelligenti e hanno una capacità di adattamento superiore a quella dell'uomo. Potrebbero salvare il pianeta, basterebbe solo ascoltarle. Ascoltiamo le piante oltre naturalmente agli animali e a noi stessi. La serie di interviste Straparlando, quelle che prima erano quando non c'era ancora Robinson, sono sempre a cura di Antonio Gnoli, sempre con un bellissimo ritratto di Riccardo Mannelli. Ora sono su una pagina sola, ma il carattere di Robinson è forse anche un po' più piccolo di quello delle pagine normali di Repubblica, e questa volta l'intervistata è Nada, il cui nome è Nada Malani, ma la cantante naturalmente, che vinse nel 1971 il Festival di Sanremo, poi ha continuato a cantare magari un po' fuori dai circuiti di maggiore esposizione, ma così ha fatto. Tra l'altro vi segnalo anche, poi chi ha sentito ieri il Sabato del Villaggio e in generale chi ascolta Radio 24 conosce Paolo Giordano, che è il critico musicale del giornale, e anche ieri è intervenuto, ha parlato delle novità che si possono regalare a Natale. Oggi sul giornale invece dedica un articolo a Simone Cristicchi a proposito di Sanremo, che vinse anche il Sanremo con quel brano bellissimo che era Ti regalerò una rosa, che si ispirava alla sua esperienza dopo aver visitato alcuni manicomi. E ora Paolo Giordano ci racconta Cristicchi appunto con questo titolo: Metto in scena i dolori rimossi della storia d'Italia. Il cantattore racconta a teatro David Lazzaretti, definito da Arrigo Petacco il Cristo dell'Amiata. La lettura del Corriere della Sera, che invece è arrivato al numero 262, quindi ormai ha più di 4 anni probabilmente, ma anche questa era stata una novità appunto sicuramente positiva, cioè quando nasce un supplemento culturale è sempre una novità positiva secondo me. La copertina, come sempre sapete, è affidata a un artista, questa settimana Bruno Ceccobelli. Dall'interno vi segnalo una bella recensione a un libro di Harvey Cox, The Market as God, a proposito di business e sport. Qui il titolo è Economia e sport, la migrazione del sacro, cioè appunto come il sacro, come sacri stiano diventando alcuni sport, sacri per il business ma anche proprio come seguito, che diventa quasi secondo questo teologo, una strana, moderna, contemporanea idolatria. Vi segnalo infine l'ultimissima segnalazione prima di lasciare lo spazio al GR delle 8, Alias, il supplemento domenicale del Manifesto, ha una copertina dedicata a Céline, Louis Ferdinand Céline, uno dei più grandi scrittori francesi del secolo scorso. Oltre 200 lettere agli editori scelte dalla casa editrice Quodlibet, tra quelle che l'autore del Voyage inviò tra il 32 e il 61, rigurgiti di odio verso quelli che considera infami pescecani. Il rapporto tra gli autori e i loro editori è stato oggetto di tantissime discussioni, e spesso gli agenti o gli editori stessi o gli editor raccolgono questo rapporto controverso che caratterizza un po' da sempre gli scrittori con i loro editori che accettano o rifiutano i loro scritti. Era l'ultimissima segnalazione, mi fa segno Carmelo Lauricelli in regia che ringrazio. Ancora una buona domenica da Giulia Crivelli.